Ambiente e Salute, in collaborazione con ISDE Italia, Associazione Medici per l'Ambiente. Bentrovati amici di Blu Radio Veneto da parte di Antonio Saccato per questo nuovo appuntamento con Ambiente e Salute, nel quale daremo degli spunti di riflessione che lasciamo all'approfondimento dei singoli, ai quali ricordiamo anche la possibilità di scaricare il podcast della trasmissione dal sito bluradioveneto.it. L'argomento che tratteremo questa volta è ambiente e salute con invecchiare sani in ambiente sano, un argomento che assilla sociologi, tecnici attuariali ed esperti sanitari e che tratteremo col dottor Francesco Cavasin, al quale domandiamo subito. Oggi parliamo di invecchiamento della popolazione e dei suoi legami con l'ambiente. Quali numeri abbiamo da poter dare? Ringrazio te, Antonio Ceccato, e la redazione di Blu Radio Veneto per questa ulteriore occasione che abbiamo di ritrovarci e di discutere su uno dei temi che sono di attualità. Come abbiamo fatto nelle precedenti edizioni di questa serie, diamo solo delle pillole di riflessione intorno agli argomenti che avremo bisogno di spazi molto più ampi per essere trattati convenientemente. Certo, quindi, degli assaggi, dei frammenti. Esatto, diciamo. Mi scuso fin da ora se in qualche passaggio magari si è stati troppo veloci oppure molto superficiali. Oggi parliamo di un argomento, come dicevi Antonio, che è molto importante. La popolazione sta invecchiando sempre di più, soprattutto qui nella nostra Italia, e dobbiamo invecchiare sani, in maniera più sana possibile, e quindi anche l'ambiente deve essere, il nostro ambiente in cui vive l'anziano deve essere il più sano possibile. Dicevi, diamo dei numeri. Allora, entro il 2050 il 27% della popolazione, quindi andiamo quasi a un terzo, avrà più di 65 anni. E nella fascia di età sopra gli 85 anni avremmo che ci saranno 2,5 donne rispetto ad ogni uomo. Ah. Il che vuol dire che il futuro è tutto al femminile. Certamente. E il tasso di dipendenza, proprio per queste caratteristiche che ho detto, tra le persone anziane sarà sempre più elevato. Cioè, man mano che invecchiamo come popolazione, ci sarà sempre più bisogno di essere assistiti. Teniamo in considerazione anche un altro fatto che probabilmente fa sorridere. Iniziamo a invecchiare dai 50 anni. Quindi da questa età tutti dovremmo sentirci un po' più anziani. Ecco perché è importante ragionare su questo. Veramente. Perché un ambiente sano determina un invecchiamento sano? È una domanda provocatoria, naturalmente. Certo. E qui proprio perché ci arracciamo a quello che abbiamo detto quando abbiamo parlato di prevenzione e che ci è dato modo di comprendere come oggi. Certo, ci sono delle malattie infettive che ancora fanno sentire la loro presenza, ma quello che abbiamo oggi sono soprattutto le malattie croniche non infettive. Che cosa sono queste malattie croniche non infettive? Sono malattie che prendono la loro origine fin da quando siamo bambini, che si sviluppano quindi nel tempo e che richiedono decenni prima di manifestarsi clinicamente. Quindi hanno un decorso che è molto lento, protratto nel tempo e che richiedono anche un'assistenza a lungo termine. Ma proprio per questo sono anche quelle malattie sulle quali si può fare molta prevenzione. Faccio alcuni esempi. Per esempio le malattie cardiovascolari, i tumori, le bronchiti croniche ostruttive, il diabete. Quindi sono degli esempi classici di malattie croniche su cui anche una certa qualità dell'ambiente può giocare un ruolo determinante. Può influire, quindi, sì. E che cosa può fare l'uomo nei riguardi di se stesso per invecchiare in modo sano? Ma dico una stupidaggine, prevenire il tabagismo, per esempio, o sbaglio? Ecco, bene, dici bene, perché è una di quelle questioni che proprio appartengono agli stili di vita. Allora, per invecchiare sano, prendendo spunto da questo, dagli stili di vita di ognuno di noi, dobbiamo certamente guardare la nutrizione, l'attività fisica, la sicurezza dell'ambiente in cui viviamo, il disassuefarsi al fumo e all'alcol, soprattutto nella nostra area, la lotta all'obesità, la cura della vista e dell'udito, e la salute mentale. Possiamo fare degli esempi, tanto per non parlare sempre di etichette. Allora, per esempio, è stato, e si sa, che l'ipertensione arteriosa può essere controllata bene dalla riduzione del peso del corpo. Una riduzione importante di questo può portare fino a 5-20 mm di mercurio di pressione in meno, se si va proprio a un contenimento del peso. Non semplice, peraltro, mi pare. No, non è semplice, in effetti, però sono queste le stime dei dati che abbiamo. Per esempio, un regime di dieta adeguato può portare a una riduzione media della pressione arteriosa sistolica di 8-14 mm di mercurio. Però. L'apporto di sodio con la dieta può portare, se vi è una riduzione importante, fino ai 2-8 mm di mercurio in meno della pressione sistolica. Notevole. E se poi prendiamo per esempio l'obesità, qui abbiamo dei dati ancora più eclatanti, perché lo studio Passi, che sarebbe lo studio proprio della popolazione anziana, Passi d'Argento, dice che tra i 65 e i 74 anni di età il 60% della popolazione anziana è o sovrappeso o addirittura obesa. Ai. Quindi è una consistente quota di popolazione che potrebbe veramente giovarsi di questi consigli. Benissimo. Insomma, dietetici. Perfetto. E che cosa può fare l'uomo nei riguardi dell'ambiente vissuto che favorisca un sano invecchiamento, invece? Qui abbiamo quindi abbiamo finora detto quello che è proprio di quello che può fare ciascuno di noi, certo, considerando quelle che sono le sue caratteristiche proprio costituzionali. E qui adesso quello che ci stai chiedendo, Antonio, è proprio quello: che cosa può fare l'ambiente in cui è inserito, cioè l'ambiente che è stato elaborato, che è stato costruito dall'uomo. Si può fare molto se consideriamo per esempio la differenza che c'è tra l'ambiente rurale e l'ambiente urbano, chiaro. Quindi, per esempio, mi riferisco all'edilizia, ai trasporti, alla inclusione o meno nella socialità delle persone, degli abitanti, alla sicurezza proprio dell'ambiente. In una città ci sono situazioni di rischio maggiori rispetto a che in un ambiente rurale. Evidentemente. L'educazione, le forme di educazione o gli stimoli all'educazione che ci possono essere in un ambiente rispetto a un altro, i tipi di comunicazione e di informazione che si vengono a determinare proprio all'interno di queste due realtà, ritorno a dire sempre quella rurale e quella urbana. Per esempio, è tutto che si può trovare come stimolo interessante, per esempio il movimento Città Sane dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, dove si parla molto, si stressano molto questi concetti, soprattutto in relazione alla popolazione anziana. Ci fermiamo un attimo per il brano musicale che troviamo particolarmente adeguato, I Vecchi di Claudio Baglioni. I vecchi sulle panchine dei giardini succhiano fili d'aria, un vento di ricordi, il segno del cappello sulle teste da pulcini. I vecchi mezzi ciechi, vecchi mezzi sordi, i vecchi che si adannano alle bocce, mattine lucide di festa che si può dormire, gli occhiali per vederci da vicino a misurare le gocce, per una malattia difficile da dire. I vecchi, tosse secca, che non dormono di notte, seduti in pizza o letto a riposare la stanchezza, si mangiano i sospiri e un po' di mele cotte. I vecchi senza un corpo, i vecchi senza una carezza, i vecchi un po' contadini che nel cielo sperano, temono il cielo, voci bruciate dal fumo e dai grappini di un'osteria. I vecchi, vecchi e canaglie, sempre pieni di sputi e consigli. I vecchi senza più figli e questi figli che non chiamano mai. I i vecchi che portano il mangiare per i gatti, e come i gatti frugano tra i rifiuti, le ossa piene di rumori e smorfie e versi un po' da matti, i vecchi che non sono mai cresciuti. Vecchia anima bianca di calce in controluce, occhi anacquati dalla pioggia della vita, i vecchi soli come i pali della luce, e dover vivere fino alla morte che fatica. Con una piccola busta della spesa, quelli che tornano in chiesa lasciano fuori bestemmie e fanno pace con Dio. I vecchi povere stelle, i vecchi povere fatte sbottonate, guance raspose arrossate di mal di cuore e di nostalgia. I vecchi sempre tra i piedi, chiusi in cucina se viene qualcuno, i vecchi che non li vuole nessuno, i vecchi da buttare via. Ritorniamo in studio con il dottor Francesco Cavasin per l'argomento importante di invecchiare sani in ambiente sano. E per scendere più in concreto gli chiediamo come debbono operare i sistemi sanitari. Effettivamente è la questione delle questioni. Quando si parla di una popolazione che sta sempre più invecchiando, da un lato come medici siamo preoccupati della salute di questa popolazione, ma come amministratori o comunque come responsabili della Rex Civica è molto importante tenere in considerazione l'aspetto sociale in cui questo invecchiamento si determina. Quindi avremo sempre più da integrare quelle che sono le osservazioni che si debbono fare, esprimere nell'ambito proprio della salute, con quelle proprie dell'assistenza sociale. Quindi questi due ambiti, il sociale e il sanitario, devono imbricarsi sempre più fortemente e cercare di essere equi, universali e naturalmente pronti a sostenere quelle situazioni che sono le situazioni più critiche, più emergenziali. Quindi sono due sistemi complementari, se posso dire. Esattamente, sono sistemi complementari che richiedono una prova sul campo che deve essere effettuata attraverso anche delle sperimentazioni. Quindi cose empiriche, non solo teoriche. Esattamente, perché tanto si fa, ma si può ancora fare molto di più alla luce di quelle che sono le realtà locali in cui naturalmente abbiamo da affrontare o comunque da approfondire questi aspetti che sono tipici dell'invecchiamento della popolazione. E questo richiede proprio lungimiranza, richiede anche investimento, richiede anche proprio come innovazione in termini proprio di ricerca di alternative a quelle che oggi già abbiamo e che non sono cose da poco, come per esempio l'assistenza in case protette, certo. In realtà sicuramente fornite per un sostegno importante a certe forme di disabilità crescenti, però questo è solo quello che oggi abbiamo, ma per quello che ci si palesa nel futuro probabilmente c'è bisogno di fare molto di più, molto quindi di più, pensare per esempio a delle residenze protette, alla casa come ambito sociale di appartenenza più che casa propria, come una, diciamo, una gestione diffusa, diciamo, esattamente, ecco. Di quello che è proprio il servizio abitativo. Certo, e diciamo c'è un altro piano che è fondamentale, io ritengo, il piano culturale, e qui evidentemente è una cosa anche abbastanza complessa, ma che cosa può essere fatto da questo punto di vista? Sul piano culturale direi che c'è molto da fare. Per esempio bisogna conoscere molto bene la popolazione che invecchia, come invecchia, quali sono le caratteristiche di questa popolazione. Quindi da un lato c'è un campo veramente aperto agli studi, chiamiamoli così, geriatrici, che sono gli studi proprio dedicati alla popolazione anziana, ma come abbiamo visto cominciamo a invecchiare ai 50 anni, quindi io non la vedo solo collocata solo in un ambito particolare, ma è un trend di vita che deve essere preso in considerazione piuttosto in lungo e in largo, diciamo. Chiaro, non è un fatto acuto, traumatico o qualcosa del genere. Esattamente, quindi è qualcosa che deve trovare proprio in questo sistema culturale di approfondimento, che prende come dire la propria ragione d'essere anche in uno studio longitudinale. Quindi bisogna lavorare molto sulla popolazione, conoscere bene come la popolazione invecchia, e quindi su questo anche creare dei ritorni in termini proprio di ricerca scientifica su questa popolazione, e quindi lavorare molto sul piano proprio del culturale e comunque anche della ricerca oggettiva di come avviene questo invecchiamento all'interno della popolazione. Certo, e magari anche divulgare questi studi all'interno della popolazione in modo che si sappia di che cosa si tratta. Esattamente. Ci sono degli interventi prioritari, e se sì, quali sono? Ecco, proprio per non rimanere sempre un po' sul teorico, e quindi anche su questo che si diceva un po' sul concretizzare, esatto, nell'ambito culturale, che è molto importante, perché la partita è molto importante sul piano culturale, sull'approccio proprio non solo in termini assistenziali dell'anziano, ma in termini proprio culturali. Vero. Possiamo però dire alcune cose in termini molto più stringati, molto più concreti, e che cosa dobbiamo in qualche modo porre la nostra attenzione, e sono quegli interventi prioritari a cui tu facevi riferimento. Per esempio, una cosa molto banale è quella della prevenzione delle cadute. Il 40% della popolazione che è presente nelle nostre case di riposo è presente proprio in seguito a una caduta, e questo la dice molto, insomma, quindi prevenire le cadute. Poi la promozione dell'attività fisica, che non è soltanto quella di mettersi in canottiera e correre, ma anche la salute di tipo mentale. Quindi si chiede anche di avere un, come dire, al di là di quello che è l'impegno fisico, c'è anche proprio quello culturale, quindi proprio di star bene insieme, di mens vivere insieme. Sana in corpore sano. Esattamente. L'altra diciamo intervento prioritario è quello oggi attualmente molto molto discusso, ma anche piuttosto attuale, è quello delle vaccinazioni. Dibattuto proprio. Noi abbiamo nell'ultimo anno, nel 2015, un tasso di ospedalizzazione e di morte dovuto proprio alla mancanza delle vaccinazioni che ha avuto un incremento rispetto agli anni passati. Certo. E di questo bisogna tenerne conto, quindi le vaccinazioni vanno fatte, soprattutto riguardo a situazioni epidemiche come quelle presentate dall'influenza. Un sostegno all'assistenza domiciliare, che deve essere non soltanto quella di genere, perché oggi si vede l'assistenza domiciliare soprattutto come un compito al femminile. Giusto. E poi abbiamo anche qui delle situazioni che vanno meglio comprese, meglio gestite, perché molto spesso si parla di assistenti domiciliari che non sono italiane o che non appartengono al nostro tessuto. Certo. Scegliere per esempio con saggezza alcuni trattamenti, come stare attenti a non ricorrere troppo spesso agli antibiotici, e soprattutto per quanto riguarda gli anziani, attenzione all'uso delle benzodiazepine per dormire, perché queste sono quelle che maggiormente poi danno problemi all'equilibrio. E poi, come si diceva, integrare bene quello che è l'aspetto nostro sanitario con quello appunto di essere parte di una comunità, quindi il vicinato, che in qualche modo può essere anche un aiuto, un sostegno sì, per facilitare appunto eventualmente anche la richiesta di aiuto qualora questo si renda necessario. Quali conclusioni possiamo dare? Possiamo dire allora, Antonio, che invecchiare sano è possibile, però all'impegno del singolo deve corrispondere quello della comunità in cui questa persona vive, dove cresce e dove si educa a rispetto dell'ambiente. Imprescindibile, credo, sì, esatto. E queste sono delle considerazioni che lasciamo ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici, perché chiaramente si invecchia, volente o nolente, si invecchia, e quindi l'importante è invecchiare bene, e questo è l'augurio che noi facciamo ai nostri ascoltatori. Grazie e alla prossima puntata. Ambiente e salute, in collaborazione con ISDE Italia, Associazione Medici per l'Ambiente.